America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. What's that Fred's getting? A computer. He can't even drive a car. He's gonna run a computer? Yep, they sent him to a special class to learn how. Hope he did better in theirs than he did in ours. And if there's a problem, they'll come right here and fix it. Right here. Who was it that gave Fred such a great deal? IBM. È uno dei motivetti dell'IBM. Perché vi parlo di IBM? Perché dal 1 gennaio sarà una donna, Virginia Rometty, a guidare il grande Big Blue. Questo avvicendamento era nell'aria, però c'erano un po' di incertezze sui tempi. Sam Palmisano, italo-americano doc, molto attaccato all'Italia, devo dire, ha soltanto 60 anni e dunque non è, diciamo, in età da lasciare la guida operativa di un gruppo come l'IBM. Eppure così è stato. L'annuncio è venuto ieri. L'avvicendamento avverrà il 1 gennaio con un paio di riflessioni. La prima è una donna, la prima donna alla guida della IBM. Una donna dal viso simpatico, occhi celesti, bionda. Non è chiaro, stiamo cercando di capirlo, se il suo nome, che finisce con una Y, sia in realtà di origine italiana, europea o comunque di un'origine non necessariamente anglosassone. Appena lo avremo verificato ve lo confermeremo. Un volto simpatico e diventa la donna più potente del corporate world americano. Ecco, l'America va avanti, noi siamo persi in Europa, in Italia, in mille polemiche di ogni genere. Nel momento in cui si deve fare una nomina sembra che il paese debba esplodere, intervengono tutti, dal Presidente della Repubblica, del Consiglio, il Parlamento, una nomina di una certa importanza naturalmente. Per un avvicendamento adesso alla Banca Popolare di Milano, è intervenuta la Banca d'Italia, ha chiesto che un certo consigliere fosse rimosso. Insomma, c'è, secondo me, vista dall'America, una eccessiva interferenza di quelli che sono i poteri istituzionali in quelli che dovrebbero essere invece i poteri autonomi e indipendenti di una azienda. La lezione che abbiamo avuto da questa nomina è proprio questa: la meritocrazia, il fatto che qualcuno vada avanti semplicemente per quello che ha fatto, per i suoi meriti, per il bene dell'azienda, per il bene comune, in un'atmosfera positiva, senza nessuno che si metta in mezzo a fare degli sgambetti per questioni o motivazioni politiche nel senso più politico del termine, con interferenze di partiti, di parlamento, di potentati. Ecco, se si riuscisse con questa crisi magari a dare un taglio col passato, aprire un po' le finestre, avere un po' d'aria fresca in materia semplicemente di meritocrazia. Ma l'America va avanti anche con gli altri suoi appuntamenti istituzionali e politici, intanto con l'appuntamento con le elezioni e l'appuntamento con il tentativo di rivitalizzare la crescita economica. Di nuovo, noi in Europa siamo immersi in una nuvola di fumo, di confusione, c'è questa sensazione di una mancanza di leadership, e non sto parlando soltanto dei problemi che abbiamo all'interno del nostro paese, con un governo che si trova costantemente in difficoltà, che rischia ogni volta di vacillare. No, sto parlando proprio di un vuoto di leadership a livello europeo, perché poi Sarkozy o la Merkel non sembrano avere quel frustino in mano in grado di mettere ordine, di dare sicurezza al mercato, di condurre questa Europa che sta cercando di affermarsi e di dimostrare al resto del mondo che è in grado di andare avanti da sola. Cosa sta facendo l'America? L'America, che pure, lo ripeto ogni giorno, è in continua difficoltà, non ha lo smalto di un tempo, però va avanti nella nomina del nuovo capo dell'IBM, va avanti col tentativo di mettere a punto un piano per il rilancio dell'economia. Barack Obama è in campagna elettorale, ha presentato un piano per cercare di estendere la possibilità di rinnovare mutui a tassi agevolati, cioè ai tassi di mercato di oggi, a 1 milione di americani. Una proposta molto concreta. I tassi di mercato oggi per mutui trentennali sono al 4,25%, per mutui ventennali scendono addirittura al di sotto del 4% in alcuni casi, ma ci sono una gran quantità di famiglie americane che hanno mutui al 7%, al 6,5%, sono bloccati, hanno un impegno di capitale nei confronti della banca che spesso supera oggi il valore stesso della casa in cui abitano. Dunque c'è una situazione molto fragile, molto difficile. Obama ci prova, ripeto, è una misura molto concreta, non è una misura risolutiva, perché sono 10 milioni gli americani che oggi hanno problemi, diciamo, coi loro mutui e una esposizione esposizione al di là di quello che sarebbe un livello di sicurezza accettabile. Però il presidente riuscì a sdoganare 1 milione di famiglie nel 2009 con il suo primo piano, questa rivitalizzazione, perché non è un piano nuovo, è semplicemente una rivitalizzazione che passa attraverso Freddie Mac, Fannie Mae, le grandi istituzioni pubbliche americane che faranno da garanti con le banche per cercare di autorizzare questi rinnovi volontari, aggiungeranno un altro 1 milione. 2 milioni, ne restano 8. Comunque è un passo in avanti. Each individual taxpayer will have a choice. You can continue to pay your taxes as well as the accountants and the lawyers and under the current tax system that we got, or you can file your taxes on this postcard. E mentre Obama è in California, parla di economia, non parla delle sue vittorie in politica estera perché sa benissimo che la campagna elettorale si gioca tutta sull'economia, Rick Perry, governatore del Texas, cerca di farsi spazio nel gruppo repubblicano, cerca di recuperare terreno che ha perduto perché, diciamolo, non ha fatto molto bene negli ultimi dibattiti elettorali. Il candidato in testa resta, lo abbiamo detto più volte, Mitt Romney. Ecco, cerca un ritorno con una proposta fiscale. Una flat tax, un'aliquota fissa, propone il 20% di aliquota fissa per il reddito delle persone fisiche e per il reddito delle persone giuridiche, dunque delle aziende. In qualche modo potrebbe essere un po' sulla falsariga di quello che ha proposto Herman Cain, il candidato afroamericano, l'ex amministratore delegato di Godfather Pizza. 999 era il simbolo di Cain. Ebbene, non è così. Ho fatto una ricerca, mi sono reso conto, parlando con gli esperti americani, che la proposta di Cain in realtà è una proposta piuttosto povera, anche perché punta soprattutto sulle tasse al consumo. Le tasse al consumo finiranno per affossare la crescita e dunque non va. È una proposta che non va. Quella di Perry potrebbe andare, resta una proposta regressiva e apre di nuovo il dibattito. A questo punto Mitt Romney è stretto nell'angolo, sarà lui a dover dire perché non vuole procedere lungo la strada dell'aliquota fissa, e se decidesse anche lui di farlo, beh, avremo un bello scontro fra due tesi diametralmente opposte, quelle di Barack Obama e dei democratici che vogliono mantenere lo status quo e quella dei repubblicani che invece vogliono rivoluzionare in modo, devo dire, regressivo il sistema fiscale americano. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, Mario Platero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Lulu, l'attesissimo disco nato dalla collaborazione tra Lou Reed e Metallica, a questo punto è online per intero. Potrete trovarlo nei negozi invece a partire dal 1 novembre. Lou Reed e Metallica, anticipazione su America 24, Iced Honey. 1, 2, 3. If I can't trap a butterfly or a bee, if I can't keep my heart where I want it to be, if no matter how much soul and heart I put to the wood, if a flaming heart is not that good, iced honey. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi ha presentato America 24.